Режим работы включи до 3 минуты. Chi è Fondo Scala? Chi è? Non sento audio se stai parlando. Come sopra. Prova, prova. Prova. Prova, sta uscendo, sì. Prova, 1, 2, 3. Antonello, tu sei? Antonello, se sei tu non c'è audio. Segnale forte, molto, ma non c'è audio. Dagli una scucciolata. Marco! Prova. Oh Marco, mi senti adesso? Sì, ti sento, Luca, di tu. Stavo provando il Daifo, ma se non esce il radio, boh. Segnale c'era, a quanto pare. Sì, segnale 9 più 30 era, come adesso, fondo scala quindi, però radio zero, credo che fosse Pomponio collineare. Invece no. Deia, hai detto il Typhoon non sta andando, così è? Deia, non sta andando, non so perché. Un bel fermo. Se c'è qualche condensatore, che cazzo ne so. Infatti me lo volevo fare in soldi. Tanto è sempre ributtato. Dimmi un po', questo come va la radio, va bene? Sì, ti sento bene. Diversa un po' dalla solita... dalla solita, quella amplificata dall'MB più 5 è diversa, però è chiara chiara. Ma la conosci anche questa radio? Ah boh, che radio è? Ti mando la foto, c'è un WhatsApp vicino. Oddio, devo trovare il telefono, vabbè. Sì, ce l'ho. Sì, è uguale alla mia. Ma mi dici un po' le funzioni? Aspetta Luca, cosa mi hai chiesto? Le funzioni? Le funzioni, come funziona? Allora, i tastini a sinistra, cioè premendo direttamente ti dà la funzione scritta in alto. Per utilizzare la funzione scritta sotto il tastino devi premere prima il tasto function, quello in alto a sinistra. Nell'angolino, premi function, premi il tastino che vuoi e ti attiva la funzione, la scritta sotto il tastino, vabbè, detta terra terra. Vabbè, c'è anche i watt regolabili, tipo qua c'è SRF, S-RF, il tastino, vedete cosa serve. Allora, premendo il tasto funzione e poi SRF ti spegne lo smitter. Lo smitter te lo disattiva. Ripremendo function SRF te lo riattiva. Per me è una giabidura, però l'hanno messo. E la luce si intende dire? Sì, ti spegne le barrette dello smitter, rimangono disattive, non sale, non segna. Basta se non riesco a riattivarle. Sì, se lo riattiva, sempre col tastino, prima funzione e poi SRF. Quindi sotto c'hai BP, sarebbe il bip del che ogni volta che cambi canale o tocchi qualcosa fa P, ma è forte, è un casino. poi c'è lock per bloccare la frequenza, LCD off ti spegne addirittura, ti spegne gli LCD, il coso che sta lì liquidi ti spegne, però non la retroilluminazione, infatti non so perché l'abbiano messo. Poi c'hai scan list, serve a eliminare dei canali dalla scansione, hai cut, i-cut serve per tagliare i toni alti, farti la ricezione più bassa, più calda, pot è il timeout timer che non si usa da noi, che dopo 8 secondi ti stacca la portante da solo, e poi SRF te l'ho già detto. Poi quello è bello perché lo puoi programmare, ti puoi fare i canali come vuoi tu, ti puoi fare le bande come vuoi tu, eccetera. Per il resto è come un 3009 quasi, per i comandi frontali. Dentro invece la scheda SMD è molto moderna, capito? E questa monopola a tone, il tono? È tone. L'eco, allora col piribicchio che c'è più al centro attivi l'eco e ne regoli il volume dell'eco e quindi anche il numero di ripetizioni. E con l'anello regoli la velocità, mi pare, la velocità della ripetizione. K. Ah, ho capito, capito. Poi c'è i watt vogliono al massimo, perché fa, quanto ho letto su internet, fa da 1 watt a 20 watt, me lo confermi? Mamma mia, no scusa Luca, non è per te, ha chiamato Paoletto a casa, dopo tanto tempo che ce l'avevamo staccato e te l'avevamo tolto dalle balle, è tornato a chiamare, mamma mia, ho sentito mamma che ha risposto adesso. E mi ha detto, ciao Paole, per carità. Vabbè, tornando a noi, cosa mi hai richiesto? Ho detto, scusate, siamo a 21.000 da giù di Tava. I watt sono da 1 a 20, mi confermi? Allora, nella versione originale della radio sono 12 in AM, 40 in FM e 30 o 35 SSB. Nella versione come esce dalla scatola però, ricordati, 12 AM, 40 FM e una trentina, 30 o 35 SSB. In SSB sono leggermente meno dell'FM, ma poco di meno. Se invece è stato aumentato, sì, probabile che arrivi anche a 20 watt. Tanto questo c'ha due finali. Ho visto che cosicchia questa radio, non lo so. L'ho scritto su internet, l'ho vista, costa 300, può essere, oltre 300 euro. No, no, quella costa intorno ai 200, 220, 230 massimo, poi è un prezzo da ladri, oltre quel prezzo è da ladri. Guarda, ci sono le ultime versioni che hanno anche il noise blank ANL avanzato, è una specie di filtro preliminare il QRM. Come aspetta, un nome particolare, non mi ricordo. Comunque 220, 230 massimo e non va oltre il prezzo. Sono visto 205 più 5, 210 euro. No, questo è il CRT SS, è uguale comunque il CRT. Sì, il CRT 6009 ha il display blu. E le ultime versioni comunque hanno tutta quella cosa in più. Quella cosa in più che ti ho detto, il come si chiama? Per eliminare il QRM, però è un processore digitale che ti elimina il QRM. Molto, capito? E non mi viene il nome tecnico, capito? Io ho la prima versione invece, quella marcata Intec. È comunque una bella radio, dai. Ti puoi fare le bande come vuoi tu, ti puoi fare anche una banda riservata ai canali inglesi in FM, no? Con la canalizzazione inglese. Ti puoi fare, che ne so, la banda di 28 mega per ascoltarlo, ti puoi mettere lo 0 finale in tutti i canali anziché il 5, no? E poi il resto lo fai con il comando a destra. Il comando a destra è il clarifier che può funzionare solo ricezione, solo trasmissione oppure trasmissione e ricezione. Te lo puoi configurare come vuoi tu. Questo clarifier, non ti cazzo di giamma, questo cosa serve, mi hai detto, per? Il clarifier è per centrare la banda laterale. e può funzionare solo ricezione, come ho fatto io, oppure solo trasmissione, oppure trasmissione e ricezione insieme. Però normalmente si usa solo ricezione, perché se no vai a centrare uno e ti sposti anche trasmissione, e quindi non macella. In banda sarà centrato, vuoi fare la prova a vedere? In USB. Però bisogna vedere se sono centrato io, devo cambiare radio, guarda, ce l'ho già accesa, devo staccare il PL, devo cambiare il PL un attimo. Già è qua, sì. Mamma mia, non si sbaglia il microfono e brucio tutto. Questo quale radio stai usando adesso? Non è quella con la mia? No, questa è il 3009, l'altra è in qualche armadio, in qualche cassetto. Prova USB. Naturalmente io non so dirti se sei centrato, perché questo baracchino già di suo non è centrato in ricezione. Ma va bene, a sentire la timbrica, prova. Ok. Sacchiamo. Allora, per centrarmi, muove il polizio, chiaro scatti, sono dei piccoli scatti. Bisogna vedere come è configurato ogni scatto. Io lo so, passi di 100 Hz, me lo posso fare anche a passi di 10 Hz. Sì, guarda Luca, tu in teoria sei centrato, abbastanza centrato, dai. In un attimo ti ho messo a fuoco. Sai cos'è Luca? Lì praticamente puoi programmare anche lo step a ogni scattino, ho visto che ti fa gli scatti quello, non è continuo come qua, no? E puoi fare gli scatti da 10 Hz, 100 Hz, come dire, qua configurato, dai, se no, io l'ho messo a passi di 100 Hz. Grossolana, molto grossolana come centratura, però basta uno scatto e ho già centrato tutti, uno, due scatti e ho centrato tutti. Ah, capito. Ma è carina, è digitale, a me non gli piace sempre, c'è più lago, lo smitter, capito, analogico. Ascoltiamo bene, che valore potrebbe avere questa radio, più o meno, ora come ora? Ma usata? È usata, non saprei dire. Dovrei guardare le quotazioni su internet. Prova l'NFM un attimo. Aspetta, come sta per il set? Ecco, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Vediamo come va l'NFM. 1, 2, 3, 4, 5. Luca, FM. Vediamo, modulazione di frequenza, ci sei? Aspetta, ripasso in M. Luca, non ci sei in FM? 1, 2, 3. AM, vediamo un po'. Che è successo? Per un istante mi è sembrato di sentirti, ma una frazione di secondo e poi scomparso. Ma cosa ti è mancata la luce? Allora vuol dire che hanno messo un fusibile piccolo, perché in FM se si ha la potenza massima da 40 watt e sono un po' di ampere, saranno 5 ampere, una cosa del genere. Probabilmente il fusibile è piccolo, era per poche ampere riscaldato. Allora, Se la vanno, un po' tutti l'hanno avuta quella, un po' tutti, anche la buona anima in Natalino ce l'aveva, uguale uguale. Diciamo che ha avuto un po' di successo quella radio, è stata venduta con una quasi una ventina di marchi in tutto il mondo, principalmente perché non so perché l'hanno chiamato il successore del Pluto addirittura. Di più può fare da, allora ti spiego, io l'ho programmato 60 canali per banda, 60 canali per banda, non 40. Il programma e il computer mi fa da 26 e in realtà parte da 25 e 615, solo che io ho spostato la banda in alto e l'ho spostata in basso, capito? Il range lo puoi spostare in alto e in basso, però avrei dovuto avere una banda in più addirittura per avere, insomma, il mio ti fa da 26 ai 30.105. Si arriva praticamente lì, c'è la banda standard adesso, ma lo puoi programmare bene, pensaci bene, tu c'hai le bande da 40 canali e puoi fare da 60 canali e quindi avere un po' più di frequenze. Allora, se vuoi il cavetto suo dedicato, il programma giusto, si scarica da, aspetta, da CBNL, devi trovare la radio, aspetta, Antone, vabbè, aspetta, devi trovare il modello della radio su CBNL, ti dà, non so, le istruzioni, il programma per programmato, ti dà varie cosette, dai. Eventuali, forse trovi anche, sai che cosa, come si chiama il manuale numero di servizio? Sì, tipo il manuale servizio, ti prendo da lavoro, perché gli puoi fare delle migliori ulteriori. Ascolta, il menu l'hai trovato, il menu delle funzioni dove c'è il mic gain e tutte le opzioni, che poi è meglio non toccare. Allora, tenendo premuto menu, ti compariranno delle funzioni, poi tocchi il menu brevemente e ti fa vedere tutte le funzioni del menu, del menu. Poi premi il PTP ed esce dal menu, oppure esce dopo pochi secondi. Quindi prova, premi il tasto function per alcuni secondi e ti compaiono delle voci di menu. Tu basta che premi la portante e se ne va, e se ne esce. C'hai il Mac Again, c'hai... Aspetta cos'è, porca miseria, e adesso non ce l'ho sotto mano, non ce l'ho installato, se no te l'avrei detto, passo passo. Per esempio il Mac Again arriva a 63 mi pare, cioè non ha da 0 a 100, e il valore al massimo per il Mac Again è 63, è fatto così, capito? È un numero indicativo per indicare il massimo, dai. E, vabbè, devi roba per fare, c'è i canali alfa, eccetera. Ma tu stai usando il Mac originale? Sì, sì, va bene, va bene. Anche perché i poli, la polarità del microfono è come quella del 3009, uguale, solo che devi possibilmente di salvare il cavettino della ricezione. Il cavettino della ricezione deve essere disaldato possibilmente, perché sennò, perché da quel pin, non mi ricordo se sia il numero flat o qual è, arriva una tensione dell'apparato che serve a pilotare il microfono con i canali up down, eccetera. Capito? E autoscorsa. Quindi serve solo trasmissione, che trasmissione, microfono, telefono, sto squillando. Vabbè, lasciamolo squillare. Non mi interessa. È la massa, è la massa. Lì sono un altro ricezione, quindi fa vaffanculo. Allora, trasmissione, microfono e massa, boh. Ecco, ce l'ho già predisposto. Va bene. Sì, va bene, allora, in realtà può essere usato come un volgare 3009, come un frutto. Le altre funzioni sono già abiture, tipo il bip che lo puoi fare della lunghezza che vuoi, del tono che vuoi. Capito? Ti puoi fare, per esempio, il bip breve del quanto ti ho colto. Metti il tono a 2005, 2004, 2005 Hz, no? E 100 millisecondi e ottieni il tono breve breve del 48 colt. Per cui non si modifica quello, non ho capito. Luca, non ce l'ho sotto mano, se no te l'avrei fatto passo passo. Vuol dire che ne so, quando capita, quando lo installo poi te lo dirò, perché non mi ricordo la voce di meno, capito? Hanno delle voci strane, mi pare sia frec con la Q finale. Frec sarebbe la frequenza del bip, del bip, e time o una cosa del genere è il tempo del bip, che è in millisecondi, cioè 50, 100, cioè 50 per 100. Mi pare che il bip standard del 2009 è, per esempio, 200 millisecondi, tipo questo. Adesso ce l'hai breve, comunque, breve il bip, però è strano, è come passo di volume, ma magari è perché siamo esperti. Poi che funzioni hai? Tu, per esempio, hai la protezione dalle stazionarie, si chiama TDC, mi pare, TDR, cioè la protezione dalle stazionarie, la protezione da sovratensione e sottotensione, capito? Tutte cose che puoi disabilitare, sempre che in macchina, per esempio in macchina certe volte ti falsa la lettura delle stazionarie e va in protezione, oppure il pilota non lineare va in protezione. Allora in quel caso devi disattivare la protezione automatica delle stazionarie, perché viene ingannata un po' dal... un po' così, so che in macchina cambia la stazionaria, no? Oscilla in base alla distanza ai veicoli, ai muri, eccetera. Quella è la cosa più banale. Io non ne metto mai, non ne metto mai perché dando i controlli mi falsa la ricezione. Anche nel 3009, se metti NBNL ti falsa la ricezione, soprattutto perché ha la modulazione molto aperta, capito? Te la peggiora se non si riceve. Quindi sarà 50 euro, tanto non è che parte su. Ah, dimmi quanto era il fusibile, dimmi quanto era quello bruciato, tanto l'avrei tolto, no? Dal passato. Adeguato l'apparato per ora, che siamo o 50 euro, appena si suma, insomma, intanto non è che parta all'istante, anche se metti 50 euro, lui prima di saltare deve scaldare un bel po', no? E lì avranno messo un fusibile più, credo, 1 ampere, 2, 3, che non so. 3 ampere? No, 3 ampere sarà. Come tu vuoi? Non riesco a vedere. io. Vabbè, comunque sì. Ah, come dire, il clavifier, ti spiego, sembra che giri all'infinito, no? Tu giri, giri, quello continua a girare, no? A scatto. In realtà c'è un fondo corsa, dopo una marea di giri, c'è un fondo corsa, che non va più avanti. E io avevo contatto da un estremo, da un fondo corsa all'altro, era andato tutto da una parte, poi tutto dall'altra, e poi l'avevo messo a metà, è una fissazione mia, l'avevo messo a metà di... Metti che ci abbia messo 50 scatti, io l'ho messo a 25 scatti, in modo che corrispondesse in posizione centrale. Queste sono fissazioni mie, non ti interessa. A te interessa però selezionare, faccio il tocco giusto, perché lo puoi mettere lo step da 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, e quindi rischi di fare... cioè, se ti sposti di un kHz di sezione unilaterale, perdi già interlocutore, capito? Ecco perché forse non sei riuscito a centrare. Diciamo un po' il mio setto, non a tutti piace il clavifiero di quel tipo, eh. Vabbè. Dell'Intec te lo mando, perché l'Intec te lo dava in italiano il manuale, che io ricordi, eh? Vabbè, meglio che niente, meglio che niente. Guarda, io l'originale quando lo vedrò ti dirò il valore. Conta Luca, conta che se quell'apparato è fatto già rinforzato, no? C'ha più watt ancora, e quindi è ancora più ampere. In FM è il massimo dell'assorbimento, cioè l'NFM, perché c'ha più watt di tutti i modi di emissione e l'FM. In realtà non è un frequenzimetro, è solo un indicatore di frequenza, è un indicatore di canale, capito? Anche se tu sei 27.075.00, non è detto che sia centrato, non è un prefrequenzimetro, è un indicatore di frequenza, lo ripeto, è come un indicatore di canale, ti dà un'idea di a quale frequenza. Sì, però se si spostasse non te lo indica realmente. Tutti questi baracchini, anche per esempio il Pluto aveva un frequenzimetro vero, era un vero frequenzimetro quello dei Pluto, è vero. Invece tutti questi baracchini di adesso hanno, lo chiamiamo frequenzimetro, ma in realtà è un volgare contatore di frequenza, un indicatore di frequenza. Cioè, se sai la sezione dallo schema elettrico, magari gli fai il condensatore di quella zona lì che è relativa all'audio, alla modulazione, poi non so. L'importante è che non sia partito il transistor di modulazione. manuale in italiano, quello Intel. Ehi, ti ho mandato il manuale in italiano di quella radio che stai usando. Si chiama proprio la semicola, manuale HR5005 ITA 1, vabbè, perché ce l'avevo già qui dietro. Io c'avevo tutto, il cavetto anche, il cavetto suo per programmarlo. Purtroppo da quando XP mi ha lasciato, io l'ho programmato con XP, il programma con Windows 10 non me lo prende. Il programma per il software di programmazione non funziona Windows 10. E lo stesso per i Baobao, non mi va con Windows 10, non lo digerisce, oppure Windows 10 non riconosce alcuni tipi di cavetti USB, è una rottura di palle. Sempre tenersi un po' di tempo libero per sventiare un po' e non solo lavorare, da. Io sono tutto l'opposto, solo sventiare, lavorare in lungo. Yeah. guardando a pagina 7, mi pare, di intorno. Ci sono quelle voci di menu. RBT, RBF, frequenza del bip. Se guarda. Nell'appendice, allora, 25, 615, 30, 105. Naturalmente, anche espandendolo a 60 canali per banda, non potrai mai coprire tutto che io ricordi, però potenzialmente c'è quel range di frequenza. Io ho preferito spostarlo più in alto, poi lì, non so perché. Ma in realtà è poco basta che faccia 26-28. Sai perché? Io l'ho programmato con più canali, per ricevere anche le 10 metri, per ricevere i 10 metri bene. Se no si ferma a 28,3 e non arriva nemmeno dove c'è la fonia dei radioamatori, capito? 28,3 ancora mi pare ci siano, sia il CW doppio, capito? È un peccato. Ci sono scritti i watt, del mito della versione mia, erano 12 watt AM. Dove l'ho letto? Allora, 12 watt AM, più o meno, 40 FM, 30 banda laterale. Comunque, allora, il manuale, io lo dico per dovere, cronaca, il manuale in italiano è gentilmente offerto da Radio CB di Giulio, un canale che parla di roba di 27, ma non canale, non esiste. Sì, allora, sono uguale, se lo fa a fianco, uguale, vedi. Identico. Il manuale però è quello solo in inglese, credo. Sì, anche quello l'ultimo, sì, quello è quello programmabile in ogni modo, e di forza serio, in ogni modo di emissione e anche frequenza. Bisogna trovare il firmware adatto. È un'operazione delicata, però è una figata. O avviarla. Allora, private si vanno i canali che tu decidi di memorizzare, canali che tu memorizzi. E, per esempio, FRM e PMR sono i canali FRM che da noi non si usano, cerca i canali PMR da ricevere, capito? Allora, prima volta fai FRM, due volte penso PMR, tre volte FRM, PMR, premi ancora e non e ti disattiva la ricezione su quelle bande. Poi air marine, banda aerea, banda marina, poi anche la banda CB, AMFM, c'è tutto, ricevi in AMFM e tutto il mondo. Vabbè. E tante cose, però purtroppo ecco di quello il manuale in AMI, in AM. Poi accontisi. Il manuale in italiano credo che non ci sia, ma il manuale lì non c'era, non te l'ha dato. Configurabile in ogni modo e in ogni frequenza. Quello è, ci vuole il firmware adatto, ancora più delicato. Ecco, quello non lo conosco, cioè non l'ho mai avuto, non l'ho mai visto dal vivo, cioè usato, non l'ho mai usato, quello non saprei dire. Però per quello che riceve Allora, band step serve per un po' presente per selezionare la banda che vuoi scandire, tipo 144, 146, 146, 148. Scegli la banda da scandire, con search inizia la scansione. Mi, lo ce l'ho qua, adesso premo, eccolo qua, e sono casualmente, non so perché, in banda marina. Premo hold due volte, riparto la puttana, riparto la scansione. Mi, mi sono beccato un'armonica mia. No, guarda, allora diciamo, rispetto ai ricevitori classici, no? Qualsiasi ricevitore che hai avuto fino ad oggi, gli Uniden, o come si chiamano, funzionano in modo diverso. È una filosofia un po' diversa di cercare le bande, di fare le stazioni. Però una volta che impari, una volta che memorizzi i canali che ti interessano, fai solo la scansione, le cose mi dicono un po'. Poi anche il close call, quello è importante, il close call. E quello praticamente lo attivi, non devi fare nemmeno scansione, quello è solo fermo su una frequenza qualsiasi. Il close call ti becca le radio che stanno trasmettendo nelle immediate vicinanze. Che ne so, vedi gente in strada con dei portatili, no? Con dei portatili, non so se sono VHF, VHF. Allora, quindi il close call, loro come parlano, il sistema, il ricevitore becca un'onda elettromagnetica senza fare scansione e si ferma su quel canale che stanno usando. Lo riconosce automaticamente. È una piccola figata, poi lo puoi mettere in macchina. Adesso non so se ti hanno dato tutto, però c'era anche la staffettina da macchina, un bel di accessori aveva, di serie. Non c'era niente, nulla, non c'è la staffettina, c'è il piede che non sotto, quel piede, staffettina sotto. Oh, cosa hanno stracciato tutto, vabbè, già capito, ci hanno stracciato tutto, vabbè, per carità. Sì, è un volgare ricevitore. Il ricevitore non ha alcun problema. Te lo puoi portare fuori, in macchina, come vuoi. Sì, questo, la staffettina ce l'ha, cioè, è nella scatola, tutto chiuso in scatola, capito? Tutto chiuso in scatola. Adesso non mi ricordo nemmeno quali erano gli accessori, però erano uguali. La staffa, l'antennino. Cos'altro ti davano? Boh, non me ne ricordo, dovrei controllare la scatola da qualche parte. Io conservo tutto, hai tutte le scatole, i numeri di serie, tutto. Selezionare le bande che vuoi tenere d'occhio, di solito si mettono tutte, tutte quante, io ho escluso solo la, no, nessuna, non ho escluso nessuna, una volta che ho programmato, aspetta, vediamo se io lo premo, cosa succede, premo una volta, no, appare in nero, premo due volte, deve apparire il simboletto bianco, ecco, vabbè, dunque è una cosa che ho fatto con calma. Poi premo ancora, la disattiva. No, perché prima una volta fa il simboletto nero, che non so cosa, a cosa serve. Quando compare il simboletto più chiaro, allora quello è quello giusto. Però il close call va usato solo quando ti serve, cioè. E boh, è un po' incasinato, la verità, rispetto a un normale ricevitore come può essere cosa ne so, poi i famosi ricevitorini da tavolo, da palmo, no, è un po' incasinato come la filosofia, la crisi del verso. Sì, a 5.5 sì, sono attivi adesso, aspetta che la passi un po', ecco. Qui dietro cos'ha? La presa tutto? Aspetta, lo riguardo, mi lasciano persino dimenticato. Sì, l'attacco delle cuffie non ha niente, niente, antenne e cuffie, vabbè, la vedi così. Che carino, poi lo metti in macchina, con l'antenna auricolare lo stesso prende bene. Una figata, dai. Poi tanto lo puoi portare, una volta era vietato, ti ricordi, lo potevi detenere in casa, invece poi avevano cambiato la legge, lo potevi portare dove volevi, capito? Non era più un problema. Come hanno fatto? E dipende, Luca, allora sai cosa di buono quello? Che ti faccio un paragone terra a terra, se tu lo attacchi all'antenna esterna, non prende il battimento che prende il portatile, tipo tu c'hai un bau bau, lo attacchi all'antenna esterna, prende la colpi dalle radio FM, da tutto ciò che c'è in aria e magari ti attenua i segnali, te li abbassano, prendi il battimento. Invece quello no, quello non risente di quel battimento della radio FM, dei cellulari, eccetera. E quindi con l'antenna adatta, tipo un X30, dove vuoi, c'è una bella ricezione da fare. Certo, l'audio a me non piace di ricezione, un po' un audio mendo, anche basso, no? Devi alzare un po'. Non è bello pieno, corposo, capito? Però quello è, funziona. Ecco, capito. Cieco, non vedo niente. Allora, sulla staffettina in sotto sono indicate le frequenze, no? Perché è piccolo il piede. Allora, tipo da 25 a 87 MHz, da 108 a 137, da 137 a 174, poi 406, 512 MHz, e poi dagli 806 ai 960 MHz, che però, cioè, alla fine queste frequenze non servono a niente, perché lo sappiamo bene, no? Tutti i servizi succulenti sono in tetra e non puoi ascoltare più niente, i cellulari sono tutti digitali, non puoi ascoltare più niente, i cordless sono tutti digitali, tutto poi cifrato e criptato, quella era la roba succulenta. Adesso puoi sentire radioamatori, 27, PMR, solo quelle cose lì. Poi vabbè, la banda marina, la banda aerea, che è bruttissima proprio, a me non piacciono niente, soprattutto la banda aerea. che avevo preso il Daiwa, quasi 150 euro, un po' meno, là. Ce l'ho lì, sulla, così, alla polvere, anche all'aperto, alla polvere. Vabbè, però almeno so che quando vuoi misurare le stazionarie segna abbastanza preciso, dovrebbe essere. Se non si stava col tempo. Poi ormai da quando c'hanno quei sistemi avanzati parlano ben poco la radio rispetto a una volta, però si può ascoltare, boh, mi pare non ci sia nient'altro, PMR. Una volta forse era 162-375, tipo, ma sto parlando di quasi 30 anni fa, ma lo usiamo talmente raramente, secondo me, ora sì che l'abbiano anche dismessa, io sto parlando di anni fa, ora sì che l'abbiamo dismesso, per esempio anche i taxi hanno dismesso i 43 MHz, una volta avevano i 43 MHz i taxi, tutto è sparito, ormai si fa tutto col cellulare. Se non è proprio via telefonata e via social, via anche queste applicazioni qua, hai visto quella della Midland, CBTalk, cioè se sei un gruppo di amici apri CBTalk e parli lì, dal polo nord al polo sud e parli con tutti, non hai bisogno di baracchino, di antenne, di svilupparti in condominio per piazzare antenne e parlare antenne, la metti sotto è anacronistica, io poi sono Luca, non sono più troppo da quando è successo quello che è successo, mi ha preso male e quindi non stavo più entrando. Ho salutato giusto Pomponio, mi pare, due giorni fa, o quando è entrato, alle 9. E poi però dovevo cucinare e ho chiuso. Lui accende, chiama, non c'è mai nessuno, e allora spegne e va a fare altro, va, usa quella social per cantare, quelle cose lì. Ma il baracchino è praticamente morto. Sul 23 c'è qualcuno, forse. Fino alle 8, poi le 8 chiudono, vanno a cena. non in inglese, la mastichi, perché il manuale in inglese di quel ricevitore te lo posso mandare. Però lo mastichi in inglese, lo capisci in inglese. Fai, già sono qua, va bene. Ehi, sono qua. Allora, sto cercando in rete il manuale di quello scanner. Adesso ti mando la dotazione originale, cosa tutto ti davano con quello scanner. Te la mando, è una foto. Eccolo là. Quindi prendo la foto, si vede. La sfatta veicolare, il cavetto, il cavo accendisigari per la macchina, tutto riserie, l'alimentatorino suo originale, cioè tu lo potevi alimentare col suo alimentatore, però sai, secondo me introduce rumore quello, poi l'antennino ovviamente, di quello telescopico, e poi ti davano quell'antennino con le ventose, perché è un dipolo, come dire, un long wire piccolino da mettere al vetro della macchina, capito? Attaccavi per esempio davanti in basso e poi collegavi lo spinotto e c'avevi un antennino interno per la macchina, interno che praticamente essendo sul vetro è come che fosse esterno. Dicevo che stai smancando tutto, non siamo ancora alimentato da niente, né caffè, nulla, di questa roba non c'è nulla, solo la radio e basta, manca tutto. Sì, però il cavettino gli manca anche il fusibile, glielo devo costruire. Adesso domani stacco il cavetto, domani mattina, poi quando esco dal lavoro passo la fusola e mi compro lo spinotto, così glielo faccio io col fusibile, col portafusibile. Sì, però potevano curarla meglio là, cioè, perché la dotazione era bella, c'era un sacco di roba. Cosa sono andati? A strassadura? No, non credo. Non lo so, Marco. Ma so, che valore ha questa radio? Quanto costa? 50 euro? No, nuova. Aspetta, nuova. Io so che nuova costa 129 euro. L'ho guardata adesso. Sul sito FLQ Elettronica, aspetta. Allora, disponibile 129 euro. Però quando c'è tutto, no, nuova di negozio, Capito? Usata non lo so, la quotazione dell'usato io non la so. No, quanto costava nuova? Boh, io l'ho vista a 99 euro. Forse l'ho usata, boh, non lo so, vabbè. Comunque sia, non è facile da usare. Perché secondo me tasto schiacci se ne va in ricerca. Eia. Sì, mi ci sono indicate le frequenze, sì, già è quella. Sulla scatola c'era disegnato un aeroplano, cioè lo scanner con a fianco un aeroplano. Ti spiego, questo viene venduto anche uguale, identico, marcato Albrecht, però ti danno meno dotazione, che vabbè, a te tu c'hai la radio pura. Comunque l'Albrecht aveva meno roba, per esempio non ti davano un antennino interno per la macchina e forse qualche altra cosa in meno. Sì, l'ho vista Albrecht, una cosa del genere, sì, l'ho vista, uguale, se cambia solo il nome e basta. Boh, no, non c'era niente di quella roba lì, Marco, nulla, non ha alimentato niente, né caffè, nulla, zero. Non lo usaccio, adesso, ma questo funziona con un semplice alimentatore, da 13,8, perché lo sto alimentando con l'alimentatore grande io, però non ho il fusibile, ma rischio di bruciarla. Dovrei praticamente comprare lo spinotto, il cavo che ce l'ho, io lo costruisco io un caffè, un coso così, con rosso nero, e glielo faccio io, non ci vuole il diploma. Sì, anch'io ho preferito alimentarlo con l'alimentatore grande, quello del baracchino, perché secondo me è più filtrato, l'altro è un alimentatorino di ghisi piccoli, no, magari introduce rumore nella ricezione. Vedi, questi avevano senso quando c'erano tutte le frequenze in chiaro, perché adesso anche i radioamatori usano il digitale, no? in VHF, in UHF usando il digitale. Però una volta era un bijou, cioè sentivi di tutto e di più, e di più ancora. Facciamo in digitale, vabbè, comunque. Ma vale più la pena di comprare niente, va. Cioè qua, alla fine poi, se non ne ho voglia ne accendo, se non ne ho voglia non ne accendo, molte volte manco ne accendo. Adesso fa una prova, se avrà caricato il fusibile, ma il condensatore del baracchino, forse deve stare ancora acceso. Vorrei capire quale sia il condensatore da cambiare, devo capire qual è. Perché è un peccato, è nuovo l'iPhone, mi sembra così, aveva i suoi anni, però non è messo male. Aspetta che c'è un dubbio, aspetta, scarica di nuovo, vediamo se me lo fa aprire. Che culo che c'hai. Allora, marcato, ho trovato il manuale in italiano di quello marcato Albrecht. Te lo sto mandando. E comunque per chi non è abituato a quel tipo di ricevitori è tosto lo stesso da memorizzare, cioè da ricordare, da far funzionare. Tant'è che, vabbè, te lo dico là. Scrivi là. Vai via filo. Aspetta che sto messaggiandoti là. Canto di gioco. In un attimo, un manuale italiano, io me l'ho fiaggata perché era una cosa che avevo già trovato. Dell'Albrecht, siccome Albrecht è Midland, Alan, Midland, no, ti davano anche il manuale in italiano. Ascoltato. Come? Aspetta, premi bene prima di parlare. Ascoltato, ho sentito. Ho detto che stavo ascoltando il messaggio, capito? Oh, quella lì, lei già hai capito, sì, la... Io la chiamo antenna di plastica, no? A me piace l'alluminio, però la filosofia è quella, dai, funzionare funziona. Oh, ridendo, siamo sempre l'FM, non ci avevo badato, però ti sento di un bene. Anche perché quell'apparato esce discretamente, cioè anche col mic normale, esce bello normale, come un 3009 esce, capito? Bello chiaro. Anche in banda laterale, molti l'hanno lodato, che va bene anche in banda laterale. KK. Eia, ma niente, sì. Due patatine stavo zicchiando. Aspetta che sto ascoltando il messaggio, un attimino, un attimino e arrivo. Dimmi tutto. Luca, c'è ancora?